Mille piani, seconda puntata. Bravo. Va bene. Allora, io perché ho voluto fare questa cosa? Perché mi piacerebbe molto, però appunto io adesso la butto lì, poi si decide tutti insieme. Mi piacerebbe molto impostare questi incontri non come è stato fatto l'altra volta. Cioè, l'altra volta c'era Bipo, che tutti conoscono, stavolta c'è solo io. È molto diverso, insomma. E quindi, ecco, vorrei impostare questi cicli non in una forma seminariale dove una persona fa una conferenza e gli altri ascoltano, ma in una forma un po' più condivisa, dialogica, dove chi ha da portare dei contributi li porta. E questo è il senso che darei al termine con ricerca e o lettura collettiva. Cioè, innanzitutto un modo... Io qui ho preso degli appunti, scusate, ma io è la prima volta che sono in una situazione del genere, quindi sono uno, molto timido e imbarazzato, due, insomma, mi scioglierò, spero, fra un po'. Cosa ho scritto? Uno, un modo per non ritrovarsi chiuso in biblioteca a dialogare con se stessi. Chiunque abbia scritto una tesi di laurea, penso, sa cosa significa questa espressione, cioè arrivi a un livello di specializzazione su un argomento tale che non ne parli con nessuno, e quindi te lo tieni per te. Ecco, cosa bellissima sarebbe arrivare in gruppo a certi livelli di specializzazione. E questo porta alla seconda cosa che ho scritto, cioè la condivisione e la produzione comune del sapere. E sulla produzione del sapere, sulla produzione comune del sapere si apre un nodo caro a Bartleby che io per il momento non toccherei, che però magari in futuro, insomma, è uno dei temi su, a cui si può dedicare un incontro. Per fare una cosa del genere però occorre elaborare un metodo, se no diventa un casino. Quindi io direi innanzitutto la prima cosa, le conferenze con gli esperti, diciamo, cioè la lezione frontale di cui sopra. Non dico non ne facciamo per niente, però propongo di limitarle. Nel senso, se ad esempio lui ha detto io faccio la scuola lacaniana, l'antiedipo, poi nel testo che andiamo a esaminare oggi ci sono dei riferimenti a Lacan, eccetera. Allora, vogliamo fare ad esempio un incontro dedicato alla Lacan, tutti lo vogliono fare, perfetto, si fa. Allora magari c'è bisogno di un contributo esterno al gruppo, si chiama una persona che ci dà questo contributo, ci fa una lezioncina, in modo che ci si può organizzare, si può capire qualcosa. Quindi sostanzialmente io personalmente limiterei le conferenze ad ambiti molto specifici e definiti collettivamente. 2. L'organizzazione e la suddivisione del lavoro. Cioè io dividerei il lavoro in, vabbè, lavoro che facciamo a casa e lavoro che facciamo insieme. Lavoro che facciamo a casa significa che sarebbe carino, secondo me, se arrivassimo tutti più o meno preparati all'incontro. Nel senso, c'è da leggere quel testo, stavolta era abbastanza lungo, effettivamente. La prossima volta sarà più breve. Comunque c'è da leggere quel testo, lo si legge tutti, quindi tutti si fanno più o meno un'idea. Dopodiché ognuno si segna, che ne so, incomprensioni, spunti di riflessione, riferimenti bibliografici che vuole proporre al gruppo, e dopodiché se ne discute, si organizza una presentazione, insomma, io combinerei queste due cose insieme. E sull'organizzazione degli incontri, non lo so, voi che dite di queste cose? Qualcuno vuole parlare? No? Ma che cosa significa, scusami, cosa intendi per organizzazione degli incontri? No, vabbè, diciamo, su queste cose metodologiche che ho detto. Cioè, queste sono cose che ho pensato io, però veramente si era deciso più o meno di decidere insieme di volta in volta come farlo. E allora, vabbè, appunto, abbiamo detto nella prima riunione, facciamo una prima lezione in cui Bifo introduce e usiamo il carisma di Bifo e la sua conoscenza degli autori, la sua età, che ne so, no? E Bifo è Bifo. Dopodiché ce la gestiamo noi, insomma. E quindi io propongo questo. Sulle, sulle conferenze specifiche credo che insomma, sì, qualora sorga la necessità di approfondire un tema più specifico che sta un po' fuori, cioè insomma che rimanda a, a qualcos'altro, come la canna o sì, quello penso che emerga anche molto dalla, dalla discussione. Cioè, quando poi alla quarta volta ritorna il problema di Lacan e si dice ma non abbiamo gli strumenti per arrivare oltre, allora lì poi penso che emerga molto la discussione. E sulla, sulla questione della, del, della lettura, sì, secondo me questo incontro, cioè il prossimo incontro e quello dopo, cioè il prossimo incontro è su, sull'articolo di Guattari, che penso sia anche più breve. Sì. E quindi credo che sia anche un po' più semplice. Sul rizoma insomma, lì sarà un po' complicato, nel senso che insomma, è un po' più lungo e penso anche un po' più complicato, poi non l'ho mai letto. E uno dei nostri, insomma, di quando l'avevamo pensato, era anche quello di leggere dei pezzi proprio. Quindi secondo me nella settimana che precede l'incontro su Rizoma, che è poi il primo che affronta direttamente Mille Piani e dal quale secondo me dovrà anche uscire poi il tema o la parte dell'incontro successivo che non è fissato, cioè noi abbiamo fissato Rizoma e poi non si sa poi dove ci porta la discussione, andiamo. Quindi dentro quell'incontro lì dovrà, cioè dovremo in qualche modo affrontare ciò che però è stato secondo me anche cioè, un'introduzione a quel primo capitolo e a una serie di tematiche l'ha fatta molto bene Franco. Quindi io per l'incontro su Rizoma terrei molto anche presente le indicazioni di Franco e le cose che escono da questi due. E poi la cosa secondo me più complicata da fare collettivamente è quella di trovare dei, cioè individuare dei pezzi di testo. E quello si può fare o in mailing list prima si propongono due pezzi e poi come dicevi tu che mi sembrava una cosa interessante quella che se uno se lo legge prima magari o un pezzo non gli è chiaro o gli sembra particolarmente esplicativo non dici solo guarda ho pensato questa roba però si parte con la lettura del pezzetto che ti ha ispirato o che ti dà problema, quindi questo potrebbe essere metodologicamente un buon modo, cioè far non solo buttare lì due idee che ti sono venute ma individuare un piccolo pezzetto da cui partire per dire la tua su quel pezzo. Queste sono le cose che però credo che questo problema concretamente ce lo porremo neanche la settimana prossima ma la settimana prossima ancora, quindi qua sta oggi e la prossima secondo me a trovare un po' una forma dialogica, cioè conoscersi come abbiamo fatto adesso e sulla base di due articoli che sono preparatori a Mille Piani con te che ce li introduci un minimo e ci dici secondo te perché sono utili a quella roba lì, trovare un po' una forma dialogica e mettere a punto quella, ecco, perché poi sarà fondamentale. Esatto, cioè per come la vedo io è questo, cioè dare una forma di, cioè io appunto più che conferenze gli darei una forma assembleare, no? Cioè una forma appunto di produzione comune. Ecco, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che, cioè, siccome alcuni non c'erano l'altra volta, noi stiamo andando per scontata la presentazione che ha fatto Bifo, perché parliamo di pezzi di testo da poter analizzare singolarmente? Perché abbiamo detto che Mille Piani non è un testo che ha uno sviluppo lineare, e cioè quindi prosegue capitolo per capitolo, ma questi piani sono proprio dei piani che i due autori concepiscono come indipendenti, leggibili da soli ma anche intersecabili con degli altri piani a piacere del lettore, diciamo. Per cui per questo noi parliamo, no, di pezzi di testo, insomma, da prendere in analisi in base ai nostri interessi. In relazione a questo, se ci fosse un verbale mi piacerebbe insistere su questo punto. Prima dicevo natura dell'opera interdisciplinare e abbiamo visto dalla presentazione che veniamo da, insomma, sono vabbè filosofia, lettere, parecchi, però insomma, Lacan, antropologia, Babe, che ingegnere, insomma, Tommaso, vabbè, insomma, veniamo da formazioni diverse. Quindi, data la natura dell'opera, data la natura delle nostre formazioni, eccetera, mi piacerebbe tantissimo riuscire a rendere questa complessità all'interno delle lezioni, insomma, degli incontri. Dopodiché è chiaro, cioè non è che diamo una forma fissa, si dice si fa così e dopo si riprende, insomma, poi si vede. Dopodiché, sì, prima però voglio dire due cose, cioè metodologiche. Uno, che sarebbe anche carino organizzare dei sottogruppi, cioè se parte un tema di interesse per i semiotici, ad esempio, e si vogliono organizzare in tre o quattro per produrre insieme qualcosa, secondo me sarebbe splendido. E quindi esorterei alla formazione di piccoli sottogruppi che si definiscono o per obiettivi o per operatività. Cioè anche in amicizia ci piace stare insieme e sviluppare certe robe, si fa e poi si presenta. I risultati dei sottogruppi verrebbero in teoria, qualora si facessero, presentati alla plenaria, diciamo, e poi si vede cosa si produce, un articolo, un programma radio, quello che è, insomma. E dopodiché, sul tema difficoltà del libro e divulgazione, si era parlato, forse Antonio lo diceva, di fare un lessico, e mi sembra un'altra idea molto intelligente. Forse Babe anche lo diceva, cioè accompagnare agli interventi sul blog un lessico. Ad esempio, Bifo l'altra volta ha usato il termine piano di consistenza, e piano di consistenza è un termine tecnico che chi non ha letto mille piani non credo che capisce. Allora, adesso non parlo del piano di consistenza perché non c'entra niente, però sviluppare parallelamente un lessico. E sarebbe carino se una persona o un gruppo di persone si adoperasse per questa cosa, con chiaramente il contributo di tutti quanti. Allora, io partirei da una considerazione, cioè l'intervento di Bifo, ho già detto che mi è piaciuto molto, e appunto dalla prossima volta secondo me potrò estrapolare dei punti. Adesso andiamo un po' prima, cioè andiamo appunto allo strutturalismo, che è quello che viene prima di macchina e struttura e di conseguenza del rizoma. Allora, a fine incontro, Antonio sicuramente e anche qualcun altro, forse Elena, non mi ricordo, insomma, si era parlato della questione della dialettica, no? Ecco. Allora, io vorrei dire tre parole sulla dialettica. Cioè, perché c'è questa visione antidialettica? E in che rapporti stanno la dialettica e la struttura? E qui, se i semiotici volessero intervenire, sarei felice. Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa, cioè che non si tratta tanto di contenuti, quanto di quello che io definirei un campo trascendentale, cioè l'orizzonte all'interno del quale si collocano i contenuti. Che significa campo trascendentale? Proprio in senso kantiano. Il campo che definisce i limiti, diciamo, del contenuto, cioè del concetto pensabile, eccetera. Il problema della dialettica, allora, io ho segnato fondamentalmente tre cose. Uno, la complessità. Cioè che la dialettica è uno schema di pensiero, un campo trascendentale che tende a ridurre la complessità. E quindi perché c'è una visione antidialettica? Perché la dialettica costituisce una tesi molare che viene negata da un'antitesi molare, le quali confluiscono in una sintesi molare che alla fine fa la sintesi di tutto e presenta in sostanza un campo di pensiero ben definito. In tutto ciò, insomma, va a intaccare la complessità, e Deleuze, come sappiamo, è il filosofo della molteplicità. La struttura, lo strutturalismo, non è assolutamente un pensiero dialettico, e la forza dello strutturalismo, allora, lo strutturalismo, minimo cenno storico, Arriva, beh, diciamo, allora, il libro fondamentale che lo introduce alle strutture elementari della parentela, che è del 49 di Lévi-Strauss, gli antropologi lo sanno. Sostanzialmente Lévi-Strauss, francese, ebreo, belga in realtà, mi pare, correggetemi se sbaglio. Scappa in America, dove conosce Jacobson, va a lezione da Jacobson. Tra l'altro consiglio un libro carinissimo che ha 6 lezioni sul senso e sul suono, più o meno si chiama così, di Jacobson, che dà secondo me un'ottima sintesi, è molto breve, un'ottima sintesi della questione linguistica proprio. Insomma, Lévi-Strauss conosce Jacobson, assiste ai corsi e scopre questo modo di pensare. Attraverso questo modo di pensare lui può catalogare tutti i dati sterminati che ha tratto dalle ricerche di campo. In conseguenza esce le strutture fondamentali della parentela. Dopodiché negli anni 60 escono i due libri più importanti probabilmente dello strutturalismo, cioè Il pensiero selvaggio del 62 e Le parole e le cose di un Foucault molto strutturalista nell'anno 1966. Qual è il primo? Il pensiero selvaggio di Lévi-Strauss. 66, anno di uscita anche di semantica strutturale di Grimas, che per noi semiotici è fondamentale. Allora, diciamo che lo strutturalismo si impone pesantemente, manda a casa, i paradigmi, anche se non è una parola troppo esatta, però vabbè, non facciamo troppo di precisi, paradigmi precedenti, cioè in filosofia l'esistenzialismo e la fenomenologia, e arriva lo strutturalismo dalla lettura di Saussure. Dalla prossima volta però, cioè, vedremo come contestare lo strutturalismo anche sulla base del discorso della complessità. Bifo, in una parola l'altra volta, diceva la struttura è epigenetica, cioè è quella struttura all'interno, diciamo, del fenomeno che poi fa sviluppare il fenomeno secondo quelle linee lì. Ecco, in sostanza non c'è una trasformazione possibile all'interno di un codice strutturale, e la macchina contesterà proprio quello. Il secondo aspetto sulla dialettica è la critica al negativo, che come è noto è un tema forte di Deleuze. Allora, io non mi dilungherei tanto sulla critica al negativo, perché pure è un tema enorme che meriterebbe un incontro a sé, uno di quelli specialistici. Diciamo solo che non c'è un'istanza che ne nega un'altra, o magari, cioè, nello strutturalismo c'è il gioco di opposizioni, ecco, non è quello in Deleuze, e non sto parlando di Guattari ma di Deleuze, ma un divenire positivo della differenza, un divenire produttivo, cioè c'è la differenza che differisce e differendo produce altra differenza, c'è un gioco di produzione di differenza. E il terzo, che dicevo, è la sintesi, cioè non c'è un'unità sintetica finale, insomma, non c'è una fine, ma c'è un differire della differenza come unico principio positivo di che cosa? Del divenire, della variazione. Allora, per dire che cos'è la differenza, si aprirebbe un altro tema fondamentale da indagare. Deleuze, come è noto, la riprende da Bergson, c'è un librino, c'è un articolo che poi è stato pubblicato come libro che si chiama La concezione della differenza in Bergson, qualcosa del genere, e un altro libro di Deleuze che si chiama Il Bergsonismo. Questo è il primo Deleuze, il Deleuze più legato alla storia della filosofia. Una parola su questo: fondamentalmente si divide in genere Deleuze in il primo, legato alla storia della filosofia, e i libri sono Hume, Nietzsche, Bergson, Spinoza, Proust, Leibniz è dopo, e sono questi. Dopodiché c'è il momento 68-69, differenza e ripetizione, logica del senso, in cui la critica in sostanza converge nel dire Deleuze trova la sua filosofia. Dopodiché c'è l'incontro con Guattari. E di questo se ne parlerà. Ecco. Allora, per definire la differenza bisognerebbe, secondo me, andare a vedere quei testi su Bergson. E comunque, vabbè, adesso ne parleremo in relazione allo strutturalismo. Ok, cominciamo dal libro. Allora, io adesso fondamentalmente procederei così, cioè leggo qualche passaggio e lo commento. E poi se qualcuno vuole intervenire, assolutamente benvenuto. Se qualcuno ha delle cose da dire subito, perfetto. Ah, un'altra cosa che ho pensato, visto che ho a disposizione anche il prossimo incontro, che mi viene meglio non fare tutti i criteri oggi, ma fare i primi, diciamo, io vorrei arrivare al quarto criterio, alla metà del quarto criterio, il differenziante e la differenziazione, lasciare il discorso sulla singolarità, lasciarlo perdere, dire un paio di cose sul seriale e poi vorrei ricollegarmi a due serie della logica del senso. Questo perché? Perché secondo me introduce perfettamente al discorso della macchina. Parlando della macchina, riprendiamo il discorso sulla singolarità e il discorso sulla casella vuota. Quindi in sostanza oggi farei questo. Allora, come dicevo prima, se lo ricomincia, ci si domandava cosa... io ho... No, perché ho tutti i riferimenti. Allora, io ho un'edizione in francese perché l'avevo comprato in Erasmus, eccetera. Quindi, insomma, traduco, non cito precisamente, però vabbè, lo ritrovate, ecco. La prima frase, ci si domanda cos'è l'esistenzialismo, adesso cos'è lo strutturalismo, che significa quello che ho detto prima, cioè prima erano tutti esistenzialisti, adesso sono tutti strutturalisti. Allora vado più avanti. Vabbè, struttura, sistema, termine sussuriano di sistema. Allora abbiamo, vabbè, assegniamo la linguistica come origine dello strutturalismo. Non solamente Saussure, ma la scuola di Mosca e la scuola di Praga. Allora, sulla scuola di Mosca e la scuola di Praga non mi pronuncio per niente proprio. Non so se i semiotici vogliono dire qualcosa. Beh, okay. Il circolo di Praga era il circolo di Jacobson. Quindi, sì. Ed era un po' in lotta con il circolo danese di Jemslev, che però era anche lui... diciamo di epistemologia fortemente strutturale. Tutti hanno familiarità con Saussure? No. No? Ok. Allora io di Saussure mi sono segnato come fondamentali, però appunto ditemi voi, questi punti. Uno, il segno significante significato, arbitrarietà e linearità. E due, il sistema sincronico. Secondo me non si può prescindere da questi due punti. Sì, il concetto di valore. E il concetto di valore. Che è molto importante. Appunto come, diciamo, un valore differenziale. Cioè, nel senso, mi immagino che tutta la questione poi di Deleuze della differenza, cioè, si rifaccia anche a quel tipo di nozione di valore che è profonda, diciamo. Cioè, nella nozione di valore c'è un'idea, c'è un aspetto dinamico. Secondo me emerge anche nel pensiero di Saussure. Prima del valore, vi va di dire due parole sul segno? Cioè significante e significato? Oppure lo dico io? Ah vabbè, è semplicemente, diciamo, una funzione, quindi una relazione fra un'espressione e un contenuto cos'è un'espressione, che cos'è un contenuto? Ah, beh, in effetti in realtà in Saussure erano ancora significante e significato, che avevano, diciamo, un sostrato ancora abbastanza sostanzialista, nel senso che per lui il significante era proprio la parola e il significato era appunto il senso della parola. Ma Luca forse lo sa meglio di me. Io? Di Saussure. Ah, no, io non lo frequento da molto, però nessuno penso qui. Vabbè, in sostanza Saussure dice qual è. Noi dobbiamo fondare una linguistica scientifica, che non sia la filologia, eccetera, ma una linguistica. Cioè una disciplina che ha come oggetto fondamentale lo studio delle lingue. Per fare questo dobbiamo elaborare un metodo. Ma per elaborare un metodo e per studiare un oggetto dobbiamo individuarlo, questo oggetto. Allora, qual è l'oggetto della linguistica? Non è questo, non è questo, non è questo, è il segno, fondamentalmente. Che cos'è il segno? Allora, se io dico qualsiasi parola, ad esempio telefono, utilizzo un'espressione verbale, cioè un insieme di fonemi, che rimandano a un concetto, cioè il concetto di telefono che tutti hanno in testa. Questo è il segno. Due facce, un significante, cioè esattamente, cioè diciamo i suoni che la mia, che io produco, che portano un significante, e il significato, cioè il concetto che viene significato. Ora, sul significato in quanto concetto magari ci sono delle sottigliezze. Perché, da dire, sì. Cioè perché appunto, come diceva Elena, Saussure ha un'idea abbastanza sostanzialista e ancora, se vogliamo, anche un po' incastrato nell'opposizione, diciamo, fra sostanze mentali e, boh, e tutto il resto. E, rilevo da Jens, cioè, diciamo... Sì, cioè, no, appunto, fammi... Cioè, no, e devo pensare, per dire... diciamo che col tempo, io lo dico perché penso interessi a, appunto, a, insomma, a quello che stiamo facendo, interessa a noi, piano piano l'idea di segno si è come dire, ha preso un po' le si è distaccata da questa idea sostanzialista. E appunto nel pensiero di Hemslow, ad esempio, diventa un puro fungere. Quindi io non lo so, ora qualcuno avrebbe qualcosa da ridire, però un segno è semplicemente qualche cosa che sta per qualche cos'altro. Basta. Quindi il segno è unità di significato significante. Sì. Cioè, nella prospettiva in cui io propongo la questione, sì, cioè è il segno, è il frutto della semiosi, cioè della relazione fra un significante e un significato, o espressione e contenuto. Ma questo significante e questo significato vanno intesi in termini formali. Io penso, e gran parte, cioè una parte della semiotica pensa che debba essere così. E penso che sia interessante considerare questo punto di vista il rapporto al pensiero di Deleuze. Magari non collima col messaggio, però... Cosa intendi? Cosa formale? Cioè che è, appunto, che è puro fungere. Cioè non... sono posti vuoti. Sì, relazioni vuote che uno... che, appunto, nella semiosi... Si riempiono di volta in volta. Più un significante di un significato. Sì. Quindi, insomma, non, cioè, appunto, non c'è una sostanza, non c'è sostanza prima del segno, direi che è quasi l'inverso, è quasi un, non so... Sì, è la forma che informa la sostanza. Sì, cioè, sì. Come dire, che attraverso le categorie della forma, quella che sarebbe il continuum amorfo della materia, che sarebbe il tutto, viene categorizzato e pertinentizzato in sostanze. Oh, e questo è fondamentale, perché poi sono il secondo criterio e il discorso virtuale attuale. Cioè, alla fine, esatto, comunque non è che ci spostiamo da qui in questo momento. Saussure. No, posso chiedere un'altra cosa su Saussure, perché io ho in mente il discorso sull'arbitrarietà, però il discorso sul valore invece, che tu dicevi fondamentale, non c'è la presenza. Sì, è fondamentale perché, diciamo, quello che sta poi alla base di questo modo di concepire sia la lingua, ma la lingua è una delle forme, cioè non è tanto la lingua, ma sono i linguaggi che informano la realtà, che rendono appunto che categorizzano la, la realtà, non è solo il linguaggio verbale, e la, la nozione di valore è, diciamo, la cosa più, più basilare che si può concepire dal punto di vista della, cioè della differenza più profonda, cioè nel senso il valore differenziale è quello che permette poi la, la, la generazione del, del senso, la generazione del... La, sì, insomma, la anche proliferazione fare con la capacità del di senso. Discernimento del soggetto. Ah, ok. No, e chiedo. La questione anche del fondo... Del fondo del... Sì, sì, sì, esatto, cioè banalissimamente appunto i fonemi, cioè ogni fonema è se stesso perché non è qualcos'altro. E quindi diciamo, sì, fonda l'identità delle cose, non tanto nel soggetto, ma insomma. Perché cioè, il valore viene definito sulla base di criteri differenziali, cioè questo è il principio fondamentale a cui dobbiamo rimanere attaccati per comprare. Il valore non è nient'altro che differenza. C'è ciò che non è qualche cos'altro. Ma io beh, poi lì c'è un'idea, non so, però è anche come dire il principio che come dire è anche un po' la carica il valore, non so come dire, cioè ciò che permette lo spostamento anche, cioè non, non c'è solo una definizione strettamente strutturale poi del valore. Strutturalista appunto legata più adesso sui, però uno lo può pensare anche in termini più fenomenologici e quindi sì, cioè riprendere alcuni aspetti dell'intenzionalità, quindi di questa sorta di attrazione e repulsione che si verifica nei confronti delle emergenze che si danno all'interno del mondo, ecco. Il che è molto contrario a un'interpretazione deleuziana, cioè ci sta, ci sta tantissimo. Però ecco, è proprio, cioè secondo me ci porta da un'altra parte, sì. Perché? È per il discorso della scomposizione del soggetto. E qui cioè l'intenzionalità comunque sia presuppone sempre, poi vabbè, io alla fine intenzionalità la riconduco a Merleau-Ponty perché io ho fatto quel tipo di letture. Però ci porta sempre alla fine all'unità di un soggetto intenzionante. Sì, però a questo punto mi sembra che il rapporto che c'è tra quello che hanno detto loro e il simbolico, mi sembra che questo sia il punto per ricostruire, per ripartire dal libro. Cioè, attraverso questo, questo rapporto del segno che si arriva al simbolico, che è la base della struttura. È quello che tiene tutto insieme. Allora, quindi continuiamo sul testo. Non c'è, non c'è struttura che di ciò che è il linguaggio. Cioè, fondamentalmente, il discorso del codice e della mediazione. Vabbè, arriviamo al simbolico. Lui dice, siamo abituati a una certa distinzione o correlazione fra il reale e l'immaginario. Tutto il nostro di pensiero intrattiene, com'è? Un gioco dialettico fra queste due nozioni. L'intelligenza o la comprensione pura, una facoltà definita dalla sua attitudine a cogliere il reale e la sua irreale in verità. Ora vado un po' avanti. Nel mio caso la pagina dopo, il primo criterio dello strutturalismo è la scoperta e il riconoscimento di un terzo ordine, che è quello del simbolico. Il rifiuto di confondere il simbolico con l'immaginario e anche col reale, che costituisce la prima dimensione dello strutturalismo. Allora, dopodiché è un po' più avanti che dice capiamo perfettamente che cos'è il simbolico. Però innanzitutto cosa vogliamo dire del simbolico in relazione all'immaginario e al reale? Innanzitutto che è la dimensione che mette insieme l'immaginario col reale. Cioè, perché il telefono reale che tocco corrisponde al telefono concettuale che penso? Perché c'è un telefono simbolico che assicura la corrispondenza fra le due cose. Allora, lui, Deleuze, prende l'esempio del padre di Lacan, no? Poi magari se il lacaniano ci vuole dire qualcosa sarebbe carinissimo. Sarai il lacaniano. Il gelato, lo scuro, lacaniano. Come ti chiami? Francesco. Francesco, esatto. Eccolo qui. Vabbè, in sostanza dice il padre simbolico è quello che si incarna nel padre reale, cioè non è dal padre reale che viene fuori il padre simbolico, ma al contrario, dal padre simbolico al padre reale. Che cos'è il padre simbolico? Ora, io il padre simbolico in una parola non lo so definire, se non dire che è quella figura, funzione simbolica che possiede il fallo, che è quell'elemento che rimanda a tutta la struttura e a tutto l'ordine, giusto? E cioè fondamentalmente al simbolico stesso, cioè mi sembra un elemento un po' ridondante. Che cos'è il simbolico? Il simbolico è quello che prende tutto, cioè è il linguaggio che determina tutto quanto, che in Lacan e nello specifico nella seconda formulazione del complesso di Edipo si incarna nell'oggetto fallo. Una volta che il bambino scopre di possedere il fallo, interiorizza il simbolico e ottiene l'iscrizione, cioè l'inconscio strutturale, giusto? Sì. O da un no, quello è lo specchio, che però è un'altra roba, sì. Cioè fondamentalmente il simbolico è quella struttura chiusa che determina la posizione di tutti gli altri elementi appartenenti alla struttura. Gli altri elementi sono collegati tra loro. E questo sì, sì. Io ho due cose. Una era una domanda proprio, cioè non ho ancora capito, perché sono arrivato a metà e è buono perché trattiamo la prima metà, quindi ho avuto culo. Ma quando leggo Deleuze, cioè anche in altre cose che ho letto, soprattutto sui filosofi, cioè sembra che assuma sempre, cioè leggi qua, dici cazzo, ma Deleuze è strutturalista, cioè non prende una posizione. Mi sembra, quello che ho letto, perché lui non esplicita mai, cioè non legge mai qualcosa dicendo è giusto e sbagliato, ma è come se lo usasse sempre. Allora, la mia domanda su questo, che tu l'hai letto e hai proposto di parlarne prima, cioè che ruolo gioca questa su, cioè è una lettura dello strutturalismo a cazzi suoi, oppure cioè, mette in luce determinati aspetti dello strutturalismo, oppure riporta didascalicamente ciò che è lo strutturalismo, punto interrogativo. E secondo, a che cosa serve per leggere Mille Piani la sua lettura o una lettura didascalica dello strutturalismo? Questa è una domanda. Sì. Allora, sì. Vabbè, e poi la dopo. Allora, sì, sicuramente è una descrizione dello strutturalismo didascalica e forse è la migliore che è mai stata fatta. Non a caso la semiotica per spiegare lo strutturalismo fa leggere quello. Non è una vera e propria critica frontale, però c'è infilata dentro una critica. Cioè, alla fine lui conclude con la casella vuota che c'è sempre una base, un principio paradossale che governa lo sviluppo di ogni sistema strutturale. Questo era il punto dove volevo arrivare con la logica del senso, perché poi questo principio paradossale, cioè la casella vuota, sarà ripreso da Guattari per costruire il discorso macchina, che sarà fondamentale per Mille Piani, che è fondamentale per l'antiedipo, che poi porta a Mille Piani. Il rizoma è concepibile come una struttura aperta, diciamo, perché interiorizza questa cosa fondamentalmente, e quindi in questo senso io ho proposto di partire da questi due punti. Questa cosa non mi era fondamentalmente. Lo strutturalismo ci serve per capire quel campo trascendentale all'interno del quale si colloca il pensiero. Noi non possiamo affrontare, secondo me, i contenuti del pensiero dell'Ed Guattariano se non capiamo come vengono pensati. E come vengono pensati non in maniera strutturale, però è a partire da una variazione che si introduce nella struttura dello strutturalismo che si sviluppa un campo trascendentale loro che sarà il rizoma. All'interno del campo trascendentale rizoma si collocano tutti i contenuti di mille piani, cioè parliamo di linguistica, parliamo di divenire, parliamo di micropolitica, però lo facciamo seguendo questa impostazione qui. Perché rizoma deve essere letto per primo? Perché ti dice questo, cioè ti dice come pensiamo noi, noi pensiamo così, e da qui proponiamo certi contenuti, cioè li mettiamo qui dentro. E poi volevo dire un'altra cosa veloce sulla questione del simbolico, che però richiama secondo me un po' alla questione della dialettica, cioè dell'opposizione alla dialettica, quando dice parla del simbolico tra reale e immaginario, e dice li numera, fa 1, 2 e 3, la realtà è 1, l'immaginario è 2 e il simbolico è 3, sia ordinali che cardinali, quindi il reale viene prima perché è unità, l'immaginario viene dopo perché è doppio, il simbolico viene per ultimo perché unisce. Però qua dice il simbolico è 3, non è solo il terzo al di là del reale e dell'immaginario, c'è sempre un terzo da cercare nel simbolico stesso. La struttura è almeno triadica, senza questa condizione non circolerebbe. Terzo irreale e tuttavia non immaginabile. Cioè, quindi è una terna che si dà, però non è una terna dialettica. Cioè, in qualche modo è un modo di circolazione del simbolo e del simbolico che però non è dialettico. Cioè, permette la realtà, permette lo scatto immaginario del doppio, però non è quell'opposizione molare che dicevi tu. Sì, guarda, io c'è un gesto. Sì. Ah, io la risolverei proprio così. Scusa. Cioè, perché poi questo ti rimanda al seriale, no? Allora, cioè, qui c'è la doppia serie. Diciamo immaginario reale, queste due serie si corrispondono, però cos'è che assicura la corrispondenza? Allora, qui torniamo a Saussure, principio di linearità, fondamentalmente la catena, i significanti e i significati si accolgono in catene, cioè io scrivo alla lavagna è una frase, cioè una catena significante, una catena di elementi significanti che rimanda a una catena di elementi significati che fa sì che chi mi ascolta capisce quello che sto dicendo, il senso di quello che dico. Perché capisce questo senso? Perché c'è una terza dimensione, che è quella simbolica, che assicura la corrispondenza fra le due serie. Questo è lo strutturalismo. Altrimenti non riusciremmo a capire, cioè ci servono per capire. Perché se il telefono. Dei segni non riusciremo a capire. E infatti qua dice la struttura si definisce al contrario per la natura di certi elementi atomici che pretendono di render conto a un tempo della formazione di tutto e della variazione delle parti. Cioè della variazione delle parti, cioè della variazione dei segni e del tutto della struttura, cioè della possibilità di parlarsi, di immaginare il reale. Cioè della variazione, cioè allora i segni. Sì. Come diceva Luca, i segni non sono elementi sostanziali ma sono elementi differenziali. Gli elementi differenziali, cioè un contenuto, come dire, una sua identità, un suo valore, possiamo dire, il quale cambia a seconda della relazione all'interno della quale è inserito, cioè le serie. Ma ogni contenuto e ogni variazione avviene sempre all'interno di un tutto strutturale che è precisamente quella dimensione simbolica dello strutturalismo. Cioè alla fine tutto si riconduce al sistema sincronico, cioè il linguaggio. Il linguaggio inteso non come il linguaggio linguistico, ma il linguaggio inteso come qualsiasi tipo di linguaggio, cioè qualsiasi dimensione simbolica, qualsiasi piano di codice da applicare a un altro, a una serie di fenomeni allo scopo di magari spiegare. Per quali cioè, sono individuabili no. Un'espressione, un contenuto un che si collegano attraverso la funzione segnica. Sì, sì, sì. Per quello è quello che... Però diciamo, io... È un cioè il simbolico è ciò che permette l'aggancio fra forme, fra catene che sono a loro volta forme, no? Quindi cioè, è tutto un problema di appunto di il fatto è che il simbolico è ciò che permette anche che ci sia gioco. E cioè voi non siete mai cioè in realtà quando anche il concetto più chiaro del mondo un giorno non ve lo trovate più in tasca, ecco. La possibilità che questo concetto non stia più nella vostra tasca, ecco, quello è il simbolico. Cioè, è ciò per cui c'è sempre una sorta di circolazione. Sì, circolazione, ma anche di c'è sempre un po' di vuoto, insomma. Cioè, sì, insomma, persino i cartelli stradali, persino le precedenze, voi vi dovete sforzare, dovete rigettare il simbolico, non, cioè, dovete considerare i cartelli stradali senza considerare il simbolico, perché e dovete fare un grande sforzo, ecco. Quindi per interpretarli, ecco, nel modo giusto, in modo da non fare un incidente, voi dovete respingere completamente il simbolico, cioè dovete far finta che non ci sia questo scivolamento è che quel giorno, ad esempio, quel triangolo ricordi altro e non il fatto che dovete dare la precedenza, ad esempio. Ecco, forse è stato un po' intricato nell'esplicazione, però... Ok? No, non c'è niente. Giocato, sono un po' tardi. No, no, perché è complicato. Allora, io ho quest'idea, e cioè fondamentalmente che il simbolico è il sistema sincronico e si definisce simbolico in quanto è chiuso e in quanto è quel chiuso sempre uguale a se stesso e il sistema sincronico, nonostante le variazioni diacroniche, è da considerare uguale a se stesso, in quanto è chiuso determina è in grado di determinare i contenuti. Io ho questa idea. Sì. Insomma. Sì. Quindi come lo spiego il simbolico? A prescindere dalle variazioni diacroniche nel tempo. Sì. Cioè, quando tu intendi il sincronico, intendi il sistema di funzionamento di una lingua. Allora, sì, questo è un termine saussuriano. Praticante Saussure dice per studiare le lingue noi dobbiamo arrivare a degli stati di lingue. Cioè, perché se io studio l'etimologia della parola libro, capisco sì la sua storia del libro, cioè, però non capisco niente della lingua. Cioè, io non devo studiare quello, io devo studiare la lingua, non la parola, langue-parole, no? Per studiare la lingua devo focalizzarla in un momento che è quella. Non mi può cambiare sotto la lente, perché sennò non la capisco. Io devo arrestare, bloccare il processo di cambiamento evolutivo di una lingua per averla come oggetto chiuso. Questo è il sistema sincronico. Dopodiché ci sono gli assi diacronici che portano variazione al sistema sincronico. Però nella linguistica sincronica Saussure dice queste cose succedono a livello della parola, non a livello, cioè della parola singola, non a livello della lingua come sistema. E quindi noi per studiare la lingua dobbiamo studiare il sistema linguistico. In questo senso Deleuze qui dice alcuni preferiscono il termine saussuriano di sistema. Allora il simbolico è questo sistema, cioè diciamo questo blocco, ok, che noi imponiamo alle cose, il quale ci fa considerare il piano di indagine, cioè il linguaggio, diciamo, o il linguaggio come chiuso, come analizzabile. E questa analisi, cioè questo simbolico al quale accediamo è in quanto tale ciò che assicura la corrispondenza fra quello che è e quello che pensiamo, fra quello che è e quello che diciamo, cioè fra il reale e l'immaginario. Quindi un mezzo per raffigurarsi in testa una realtà. Diciamo che però nello strutturalismo è proprio il principio a partire dal quale si distribuiscono i significanti e i significati. Per il principio regolativo. Allora, introduciamo al volo però due caratteri che secondo me, cioè due criteri che ce lo rendono più facile. Cioè, vabbè, adesso lasciamo perdere il testo, vado a braccio. Criterio topologico e criterio differenziale. Che significa? Luca diceva, il segno non è sostanziale. Cioè, l'identità del segno non è determinata dalla corrispondenza con l'oggetto reale al quale corrisponde, ma è determinata topologicamente. Che significa topologicamente? Significa che sulla catena ci sono i tratti che dividono gli elementi l'uno dall'altro. Questi tratti sono vuoti perché gli elementi non si definiscono in relazione a quello a cui corrispondono, ma in relazione a quello a cui differiscono. Quello che diceva lui prima sulla... Esattamente. Sulla loro qui. Sì, esattamente. Cioè la differenziazione. E quindi, diciamo, nello strutturalismo l'identità non è quello che è, ma è tutto quello che non è. E tutto quello che non è, in quanto si differenzia da tutto il resto del sistema. È proprio per il fatto che un elemento si differenzia dal resto che ottiene un'identità, e cioè una differenza. Ma infatti De Saussure c'è l'esempio celebre in cui lui fa, per spiegare la sua idea di valore, lui parla delle strade, dei nomi che diamo alle strade, no? E si interroga su com'è che noi diamo un nome ad una strada. E lui dice, giustamente osserva, che cioè, non è che se uno rifà la strada o rifà l'asfalto, il nome di quella strada cambia. In realtà il nome di quella strada dipende da una topologia, cioè dalla posizione che quella strada ha in rapporto alle altre strade. Ma anche l'asfalto, perché io non vorrei che uno pensasse che allora ci si occupa appunto, cioè per sottrarre un po' l'idea mentalista, diciamo, del significato e della significazione, cioè è un esempio, vuol dire che in realtà anche l'asfalto si definisce sulla base dello stesso criterio. Quindi anche la realtà è il prodotto appunto del simbolico, cioè si regge sul simbolico. Questo vuol dire che anche l'asfalto al quale io tendenzialmente vorrei ricondurre il nome, no? Come se fosse l'essenza di quella strada, in realtà lo stesso asfalto si definisce differenzialmente, e cioè perché non è cemento, perché non è qualcos'altro, non è non è io. Stavo pensando sempre sul simbolico, cioè esatto, l'esempio di Saussure dei treni, che non mi era mai venuto in mente, cioè non mi era venuto in mente, però fa capire. Il treno Bologna-Roma delle 10 non è quel treno fisicamente, ok? Cioè è quel treno fisicamente il treno reale. Però se il giorno dopo sostituisci il treno fisico con un altro treno, è sempre lo stesso treno. Ok? Quindi non è quella locomotiva con quei vagoni che fanno il treno Bologna-Roma delle 10, ma la funzione che assicura quel movimento, cioè quella trasformazione di realtà. Questa è la dimensione del simbolico. Che è indicibile poi, perché poi questo è il problema, il nostro problema a parlarne è che di fatto per definizione è indicibile, cioè se io la dico non è già più simbolico, cioè se io dico simbolico non è già più simbolico, cioè perché l'ho inquadrato, cioè l'ho chiuso, diciamo. Sì, non a caso, scusa se ti interrompo, scusa. Lévi-Strauss dice una roba fondamentale, non mi ricordo dove, forse, è l'introduzione all'opera di Marcel Mauss, che sono tipo 30-40 pagine, che io consiglio vivamente. Dice quando è nato il linguaggio è nato di colpo, cioè a un certo punto il cervello umano, cioè dell'umanità collettivo, si è messo a ragionare simbolicamente. E qui torno alla Lacan, ad esempio, nell'Edipo non c'è la relazione duale, ma si inserisce il terzo. Ora, la relazione duale prelinguistica soggetto-oggetto viene tagliata da un terzo che le separa e che però, separandole, le mette in corrispondenza. E questo è il simbolico. Il linguaggio nasce di colpo, non si evolve, poi magari si differenzia. Taglia. Vuoi dire una parola? Se posso aggiungere qualcosa, questa funzione di taglio sarebbe sostenuta appunto dal padre simbolico. Questa funzione, appunto, questo ingresso nel simbolico sarebbe determinato dalla separazione dalla diade madre-bambino operata dal padre simbolico, che permetterebbe al bambino di entrare nel simbolico e uscire dall'altalena immaginaria. E per pensare a come il bambino è intrappolato nell'immaginario, un esempio che posso fare, ad esempio per Lacan le relazioni di gelosia sono tutte sul registro immaginario, e cito un esperimento di psicologia evolutiva dove alcuni bambini sono messi in una stanza con un numero di giocattoli uguali al numero di bambini, e il risultato dell'esperimento è che i bambini si litigano tutti lo stesso giocattolo, nonostante ce ne fosse uno per uno. Il simbolico permetterebbe di uscire da questa altalena immaginaria e entrare nel campo di realtà, Lacan dice. Poi c'è qualche differenza comunque annusato adesso tra il concetto di simbolico lacaniano e questo qui. Però ecco, non so se ho aggiunto, se ho complicato. Mi viene in mente anche una cosa, io non pensavo di parlare così tanto del simbolico, però parliamone. Appunto l'Edipo e la strutturazione del desiderio come mancanza. Lacan dice il bambino preedipico, la sua, diciamo, attività, la sua vita è contrassegnata, cioè è il rapporto con la madre, in sostanza. Il bambino preedipico vive in simbiosi con la madre e, se non sbaglio, non ha neanche, cioè non ha un'identità individuale e non si concepisce come distaccato dalla madre, giusto? Sì, anche se in realtà una prima formazione dell'io l'acquisisce appunto davanti allo specchio mediato dallo sguardo della madre, quindi sì, fino a un certo punto, perché comunque lo sguardo della madre che è davanti allo specchio permette al bambino di istituire una bozza di io immaginario, di io, che appunto sarebbe però fasullo in realtà, perché appunto sul registro immaginario. E comunque niente, nel bambino preedipico il desiderio è il bisogno, cioè quando il bambino piange perché ha bisogno di qualcosa, la madre sopperisce a quel bisogno. Il bambino ha fame, la madre gli dà il latte, gli dà eccetera. A un certo punto interviene l'inconscio che taglia questa relazione duale e separa il bambino dalla madre. Tu non puoi avere la madre, il padre simbolico, no? Questo taglio porta il bisogno ad articolarsi in desiderio. Perché? Per l'esperienza di soddisfacimento. Il soddisfacimento del bisogno non è immediato, bisogno, soddisfazione, tac tac, ma c'è la necessità di un'articolazione di questa cosa, di una presa dell'oggetto. Il desiderio diventa la mancanza. In questo senso è simbolico. Scusa Tommaso. Ecco. Allora no, io sono totalmente persa, te lo proprio lo ammetto, nel senso che tutta la mia comprensione, diciamo, tutto il mio, sta andando fuori dalla finestra, nel senso che per me tutte le volte che si sente parlare della questione del desiderio come mancanza, desiderio come bisogno, negli anni 70 c'è stato un lunghissimo dibattito su questo, il desiderio come bisogno era solo una parte della questione. Io chiaramente non parlo, parlo da lettrice simpatetica, affettivamente simpatetica, E mi sto chiedendo perché stiamo parlando della struttura e del desiderio come bisogno, che mi sembra che siano due modalità interpretative che i poverini li fanno rivoltare un pochino sulla tomba. Agli autori sì. Questi perché ci siamo ritrovati a parlare del simbolico e quindi non lo so, stavo pensando a degli esempi che poi tra l'altro sono qui nel testo per cercare di far capire cos'è questo simbolico. Il rischio è chiaramente, perché nel senso se l'idea di Mille Piani è di trovare un modo attraverso il linguaggio di dire ciò che non è dicibile e di lasciare alle spalle appunto le strutture, noi facendo questo ragionamento giustamente filologico e molto attento però rischiamo di reificarle e di riportarle tutte quante dentro questa stanza, infatti ci sentiamo talvolta, cioè io ho l'idea di bisogno per dire già mi agito, se ritenevo di bisogno già sto scomoda e il padre simbolico poi non te lo dico. Se si decide di non confrontarsi con certe robe. No, non è quello che magari troviamo un modo, invece di andare in modo induttivo, andiamo in modo deduttivo, cioè portiamolo dall'esperienza quotidiana, dall'esperienza nostra e magari arriviamo al test, piuttosto che andare dal test e fare tutta la filologia dei concetti psicoanalitici, cioè nel senso, perché se partiamo dall'esperienza allora troviamo anche un terreno di connessione tra di noi, invece se partiamo proprio riga per riga dal test diventa un lavoro interdisciplinare ma che poi entra all'interno della divisione delle discipline e ci divide. E quindi magari se abbiamo un modo appunto deduttivo, cioè partiamo dalla nostra esperienza, arriviamo al libro, piuttosto che fare un lavoro tutto molto accademico. Che... Ma poi io penso sia interessante perché così uno si confronta col grado di astrazione personale. cioè trova un po' il modo di eventualmente uno ha dei concetti astratti molto legati al proprio ambito di studio, di ricerca e deve trovare il modo di dirli.